di cinema è appassionato, di moda non lo so, ma abbiamo con noi il nostro gastronauta. Ciao Davide. Lo so, ma come, il mio curriculum parla chiaro. 12 anni responsabile comunicazione di una notissima azienda di moda, quindi tu moda, come automobilismo, insomma, sono cose che ti hanno appassionato a lungo, eh? Eh sì, perché quell'azienda di moda poi l'ho portata anche in Formula 1, quindi è evidente, il passo è stato breve, ma ho sentito che parlavi che andrai per la prima volta alla sfilata. Sì, ma è un debutto. Ma non c'è bisogno, scusa, vai a vedere uno show, quindi un grande chef. È come andare a una sfilata. Se tu vai a questi congressi dove ci sono tutti i nostri chef, tu li vedrai, ma italiani, stranieri, spagnoli, e sembra di assistere a una sfilata, perché ormai loro sono i veri protagonisti degli stilisti oggi. Sono diciamo famosi, sono diventati famosi. Quindi io lo show cooking lo paragono a una sfilata di moda, secondo me è la stessa cosa. Beh, fantastico. Davide, io ti ho introdotto nel sommario dicendo che avresti parlato di tendenze discordanti, di opposti che convivono. Perché è un po' così, cioè ci sono ormai delle grandi tendenze che però sembrano quasi in contraddizione tra loro. Ma sai, io a questo punto prendo questo grande antropologo, sociologo che è morto da poco, che parlava di società liquida. Io credo che ormai siamo veramente nel momento della società liquida, anche nelle tendenze e nel cibo, perché c'è molta contraddizione, c'è tanti che vanno ognuno per la sua parte, non c'è proprio un qualcosa di consistente. Io l'altra settimana ho parlato del ramen, questo piatto cino-giapponese molto ormai diffuso non solo in Italia ma nel mondo, che sicuramente sostituirà il sushi, ma dall'altra parte c'è anche una tendenza, questo è un piatto globale ormai, ai piatti locali, perché c'è una tendenza a tornare alla nostalgia, al passato, quasi per avere concretezza. Quindi c'è questa contraddizione enorme. E tra l'altro noto anche, quando si parla sempre di slow e invece di fast, ecco, anche qui c'è una contraddizione, perché ultimamente stanno nascendo dei locali, e a Milano ce n'è uno che si chiama Moleskine, che diciamo erano un tempo i taccuini di Chatwin, oggi sono anche dei locali dove si prende il caffè, ma non più al banco, bisogna sedersi per forza, ed è quindi, diciamo, si va al lento, mentre continuano i bar dei caffè in cui uno prende il caffè al volo velocissimo. Ma ci sono anche queste tendenze che ti fanno sedere, ti fanno stare tranquillo, e proprio perché questa tendenza contraddittoria, se tu vedi ormai c'è il caffè filtrato. Bene, sta diciamo nascendo il boom dei caffè filtrati, quindi che ci vuole tempo, ci vuole anche un quarto d'ora per un caffè filtrato fatto bene, fatto diciamo come Dio comanda. Che buono, mi piace più tanto tanto. Un tempo noi in Italia lo abbiamo snobbato, sicuramente perché l'espresso è made in Italy, non c'è niente da fare, anche se io discuto sempre sulla qualità degli espressi in giro per l'Italia, proprio perché sono fatti troppo velocemente. Però il filtrato sta prendendo sempre più piede, e quindi c'è questa, diciamo anche qui c'è questa dicotomia tra fast e slow, e mentre la gente vuol stare meno a tavola, molto meno a tavola, c'è un rifiuto dei menù degustazione, quindi tre piatti ormai, perché ormai nei ristoranti si mangiano tre piatti, si mangia l'antipasto e il secondo, o il primo o il secondo, sì, o l'antipasto e il primo. Quindi diciamo è una velocizzazione questa, anche in termini di tempo. Quindi anche qui ci sono molte contraddizioni, io non vedo più un qualcosa di particolare. Dall'altro lato si dice che oggi si beve molto meglio di un passato il vino, però c'è il calo del consumo. Quindi da un lato c'è il calo del consumo, dall'altro si dice che la qualità è cresciuta. Quindi vedo, come posso dire, un bianco e nero un po' diffuso ovunque. Non vedo un qualcosa che sta prendendo il largo, se no, come dicevo, questo piatto, questo ramen, che ormai diciamo si sta diffondendo, come si stanno diffondendo i cocktail. Ecco, anche se il cocktail c'è questa nuova tendenza, che non sono più quelli tradizionali, diciamo il martini, il negroni. Oggi c'è una tendenza al cocktail fatto con prodotti selvatici, mm-hmm. quindi con prodotti, erbe, licheni, muschi. C'è una tendenza anche qui a tornare indietro, e quindi è una tendenza diversa da quella del passato, se vogliamo, classica, tradizionale. Ecco, è tutto un liquido, tutta una società liquida, io direi c'è una tendenza liquida. E anche quella di c'è un ritorno, per esempio, al pranzo del mezzogiorno della domenica, mentre certo. un tempo era completamente sparito, cioè nessuno andava al fuori porta. Oggi non dico che c'è il fuori porta, però c'è una tendenza al pranzo che sta contaminando un po' il discorso invece della cena. Un tempo è la cena la domenica, al sabato sera la cena, domenica sera la cena. Oggi è mezzogiorno, invece ritorna un po' come quando un tempo c'era una famiglia, non c'era più una disgregazione come oggi, che ognuno mangia per conto proprio, i figli rispetto ai genitori, rispetto ai nonni e rispetto ad altri. Quindi vedo un qualcosa in grande evoluzione, e io devo dire che vedo una grande confusione. Ecco, riuscire a leggere dentro questa confusione delle tendenze è un po' difficile. Però guarda, io credo che ci siano sempre dei pendant. Trovo al tuo discorso della moda, uh-huh. io credo che ci sia sempre delle analogie tra quelli che sono, i fattori che determinano il costume, moda, design, cibo. Ci sono sempre delle analogie, magari una tendenza sulla moda nel cibo torna l'anno dopo, due anni dopo, però ci sono dei cicli che rispettano un po', quello che è l'umore della società, e soprattutto l'umore anche delle arti, perché le arti influiscono anche molto, molto, molto sul costume. Oggi non si può dire che c'è una corrente artistica che sta prevalendo sull'altra. Nella moda è vero, cioè è come mettere assieme tante cose, mettere assieme tante tendenze che arrivano da tutto il mondo, tanti colori che arrivano da tutto il mondo. Ecco, però ancora io questa nel cibo non lo vedo. Vedo appunto questi fenomeni isolati di piatti che diventano locali, perché in fondo cioè il sushi è un locale, il ramen è un locale, la pizzeria è un locale. Ecco, forse quello che tiene oggi sono le pizzerie, certo. perché tengono. Addirittura Milano ormai è diventata la succursale di Napoli, nel senso che quasi tutti i più grandi pizzaioli italiani ormai hanno aperto, non so se è una loro dependenza o un loro secondo locale, hanno aperto il piano a Milano, B. Quindi il piano B, quindi hanno aperto a Milano. E anche sui locali c'è una tendenza, anche questa completamente nuova, questo è interessante. Però ci sono dei locali che non sono più quelli piccoli, ma sono locali trasformati, come ad esempio ci sono tutto un format di alcune aziende di supermercati a livello mondiale, che sono presenti anche in Italia, che invece di vendere il cibo ormai vendono dei piatti, vendono l'aperitivo, vendono anche altre cose, altri piatti pronti. E quindi c'è anche questa una contraddizione, perché chi l'avrebbe mai pensato che un giorno i supermercati importanti, la GDO, si aprisse così, certo. e magari nell'ora dell'aperitivo vedere questi locali affollati. Oggi invece sta succedendo. Ritorniamo al liquido, secondo me la caratteristica oggi è di una società liquida in tutti i sensi. Sono molto curiosa appunto di scoprire tutte le evoluzioni di queste tendenze. Insomma, torniamo anche col discorso della moda. Mi piace molto che tutto in questo modo si riconduca. Davide, un paio di minuti, una chicca ce l'hai? Sì, una chicca ce l'ho a Villa Raverio, un locale che si chiama Il Cenacolo dei Pittori. Uh-huh. E qui bisogna che spieghi, perché il nome dà un'indicazione. Ed è... Torniamo al passato. Tantissimi anni fa c'erano queste trattorie dove andavano a mangiare i pittori affamati, molti dei quali poi sono diventati famosi. E come si pagavano il pranzo o la cena? Si pagavano magari dando un quadro e dicendo: bene, io verrò 20 volte a mangiare, tu me lo scali di volta in volta, io ti do questo quadro. Oppure ci sono anche dei locali in cui si firmava il tovagliolo, certo. c'erano dei tovaglioli firmati dai pittori o la tovaglia d'altro. Bene, questo locale, le passate gestioni della famiglia che ancora oggi ha in mano questo locale, e l'hanno continuata, diciamo, oggi sono mi sembra la seconda generazione, c'è Antonio che è il cuoco e c'è Donato che è in sala, poi c'è anche una sorella, un'altra sorella in cucina, e fanno una cucina molto, diciamo, non è proprio tradizionale, perché Antonio ogni tanto ha dei colpi di fulmine. Io ultimamente ho mangiato un risotto buonissimo, che era un risotto con la burrata e l'acciuga, e devo dire che era veramente un grandissimo piatto, sembrava fatto da, non da un cuoco, ma da uno chef, mi gioco sulle parole ovviamente. Mm-hmm. Ma questo locale poi c'ha una caratteristica molto particolare, il pesce di acqua dolce, il pesce di lago, perché Antonio è un provetto pescatore e ogni lunedì e giovedì mattina va a pescare, e quindi diciamo tutti i pesci di acqua dolce, quelli dei laghi vicini, dei laghi diciamo Como, Lecco, insomma di questi laghi qua, dove lui va con la sua barca, e diciamo che questi pesci sono veramente freschi, pescati da questo personaggio, ecco. Ma non solo il risotto, poi c'è anche la pasta fatta in casa, che lui fa tortelli, ravioli, tagliatelle, pasta e fagioli, e poi è uno dei pochi posti ancora dove si può mangiare il coniglio al forno con le patate arrosto, cioè ormai è difficile trovare una cosa di questo genere, oppure anche il pollo arrosto. E anche sui dolci se la cava molto bene, perché ha creato alcuni dolci che lui ha rivisitato, come la zuppa inglese, e lui fa un'edizione addirittura estiva della zuppa inglese, inserendo il gelato al posto della crema, e quindi diciamo diventa molto, molto piacevole, molto leggera e anche molto fresca per mangiarla d'estate. Che meraviglia! Quindi un locale in cui uno non deve andare a aspettarsi, diciamo, stelle, due stelle o d'altro, però secondo me ci sono dei piatti che valgono la pena, c'è un rapporto qualità-prezzo anche sicuramente che attira, e il locale è una trattoria, quindi non è che uno si aspetta di avere il cuoco con il... Però dopo questo menù io sono convinta, quindi Villa Raveio, Brianza, dalle mie parti. Il cenacolo dei pittori, talmente piccolo che non do l'indirizzo, beh. Villa Raveio è piccolo. Che basta appunto arrivare a Villa Raveio e tutti sanno dov'è. Tutti sanno chi sono Antonio e Donato, quindi non ci sbaglia veramente. Grazie Davide, grazie al nostro gastronauta Davide Paolini, ci risentiamo il prossimo sabato. Ciao, a presto.